歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10点22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎来到歌舞剧场，我是古月。 请欣赏罗西尼的歌剧《塞维利亚理发师》选曲，由塞维里、加纳西、马格兹、格拉蒂兹等歌唱家的精彩演唱，由哈伯格指挥布达佩斯罗西尼管弦乐团、匈牙利广播合唱团演出。

tutti mi vogliono. Donne e ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucchia, presto la barba, quella sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro. Ahimè, ahimè, è furia, ahimè, è furia, come la volta, per carità, per carità, per carità, una alla volta, una alla volta, una alla volta, per carità. Figaro, son qua, ehi, Figaro! Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Prendo prontissimo, so che il fulmine sono i fantoni della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Andrea di quel metallo portentoso onnipossente. Un vulcano la mia mente già comincia a diventarsi. All'idea di quel metallo un vulcano la mia mente incomincia a diventarsi. Sì, all'idea di quel metallo un vulcano la mia mente incomincia a diventar, a diventar, a diventar, un vulcano incomincia a diventar. Su vediam di quel metallo qualche effetto sorprendente del vulcano della tua mente, qualche mostro singolar, sì, del vulcano della tua mente, qualche mostro singolar, sì, sì, del vulcano della tua mente, qualche mostro singolar, sì, sì. Voi dovreste travestirvi, per esempio, da soldato. Da soldato. Sì, signore. Da soldato. E che si fa? Che si fa? Che si fa? Oggi arriva un reggimento, oggi arriva un reggimento. Sì, è mio amico il colonnello, è mio amico il colonnello. Cavedore! E poi... Cospetto! Nell'alloggio col biglietto. Quella porta s'aprirà. Che ne dite, mio signore? Non vi pare? Non l'ho trovata? Bene, sì, sì. Che invenzione, venivano! Che invenzione, venivano! Che invenzione, venivano! Bella, bella, bella, bella, bella, sì, sì! Che invenzione, venivano! Bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, che invenzione, brava, brava, inverità! Che invenzione, brava, brava, inverità! Veda loro cosa fa. Ubriaco, mio signor si fingerà. Ubriaco? Sì. sì signore. Ubriaco, ma perché? Ma perché? Ma perché? Perché? Perché d'un che poco in sé, che dal vino casca già, il tutor credete a me, il tutor si fiderà, il tutor credete, credete a me, il tutor si fiderà. Il meglio mi scordavo. Sì, dimmi un po' la tua bottega per trovarti dove sta. La bottega non si sbaglia, guardi bene, ecco. Numero 15, a mano manca, 4 gradini. Facciata bianca, 5 parrucche, nella vetrina, sopra un cartello, fumata fina, mostra in azzurro, alla modella, vede l'insegna, una lanterna, cosa in fatollo, si troverà, 5 parrucche nella vetrina, sopra un cartello, fumata fina, mostra in azzurro, alla modella, vede l'insegna, una lanterna, La senza fallo mi troverà. Cinque parrucche, una lanterna, la senza fallo mi troverà. Ho ben capito. Or vada presto. Tu guarda bene, io penso al resto. Di te mi fido. Ora l'attendo. Mio caro Figaro. Intendo. Porterò meco la borsa piena. Sì, quel che vuoi, ma il resto poi. Così dubiti che andrò a tenere. A che d'amore la chiama io sento. E così di giù che si consento. D'ardore insolito quest'alma accende. E di me stesso, ma che mi fa? Delle monete, il suo già sento. Ma che d'amore, già viene l'oggi, la fiamma io sento. Già viene l'oggi, viene l'oggi. Non si odi, ecco, già viene l'argento, già viene l'argento. Ecco, ecco, il caso scende, ecco. Ecco, uno picchio, d'ardore insolito, questa mi scende. D'ardore insolito, questa notte già viene l'oggi, di me stesso, di me stesso, mi fa già viene l'oggi, già viene l'oggi, di me stesso, ma già mi fa. Numero 15, facciata bianca, 5 parrucche alla modella, e per l'insegna una lanterna, 5 parrucche nella vetrina, Thank you.

dolcemente. Ma che? Incomincia, incomincia a sussurrare. Piano, piano, terra, terra, sotto voce, sibilando, va scorrendo, va ronzando, nelle orecchie della gente. Si introduce destramento, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiavazzo va crescendo, prende forza poco poco, vola già di lato in loco, sembra il cuore una tempesta, c'è nel centro il campo, questo va fischiando, trottolando, che ti fanno l'arcenando, poi la pinta volta scoppia, si propaga, si raddoppia, e produce l'esplosione, come un colpo di cannone. Colpo di cannone, un tremoto temporale, un tremoto temporale, un tumulto generale che fa l'aria rimbombare, un tremoto temporale, un tremoto temporale, un tumulto generale che fa l'aria rimbombare. E meschino calunniato, vilito, calpestato. E allora? Sotto il pubblico flagello per la sorte va a crepar. E il meschino calunniato, vilito, calpestato, sotto il pubblico flagello per gran sorte e fa a crepar. E il meschino calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar. Calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar. Sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar. Sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar. Si va a crepar, si va a crepar, si va a crepar. Siete voi, bella rosina, siete voi, siete voi, bella rosina, oh che volpe sopraffina, oh che volpe sopraffina, ma la con me, si m'avrà da far con me, m'avrà da far con me. Senti, senti, ma le coro per parlar come si fa. Zitto, zitto, qui l'indoro per parlarvi oror sarà. Zitto, zitto, qui l'indoro per parlarvi oror sarà. Per parlarmi, bravo, bravo, venga pur, ma con prudenza. Io già moro di pazienza, ma che tarda cosa fa? Egli attende qualche segno, poverin, del vostro affetto. Sol due righe di biglietto, sol due righe di biglietto, li mandate, qui verrò, li mandate, e qui verrò. Che ne dite? Non vorrei. Su, coraggio. Non saprei. Sol due righe. E vergogna. Ma di che? Ma di che? Si sa. Presto, presto, un biglietto. Un biglietto. Sì. Eccolo qua. Già era scritto. Che bestia, che bestia, il maestro faccio a lei. Fortunati avete gli occhi, il fiume ventura respira. Attingate da costei di malizia potenza. Thank you. confetti alla ragazza. Il ricamo sul tamburo. Disco paff. E via. E via. Chi vuol altro, figlia mia, per potermi corbellar? Altro, altro, altro, altro. Chi vuol altro, figlia mia, per potermi corbellar? Altro, altro, altro, altro. Perché manca anche il foglio? Posso sapere cosa si imbroglia? Perché manca anche il foglio? Sono inutili le sbarfie. Fermala, non mi toccate! Fermala, non mi toccate! No, figlia mia, non lo sperate, ch'io mi lasci. No, no, figlia mia, non lo sperate, Dio mi lasci in filo, Paolo con bella mia sorte, queste sono le signorina, ti consiglio mia carina, tu vorrei il posto, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, confessate, son disposto a perdonar. Non parlate, vi ostinate, non parlate, vi ostinate. So bene che le ho da far, so bene quel che ho da far. Signorino, un'altra volta quando vado da fuori, signorino, un'altra volta quando vado da fuori, la consegna si ritorna, insomma, non si aprirà. Signorino, un'altra volta quando vado da fuori, signorino, un'altra volta quando vado da fuori, la consegna si ritorna, insomma, non si aprirà. E non sei non rimorta, se fu la gatta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure la gatta morta. Questo mi quella porta, questo mi quella porta, né mellare, né mellare, potrà. E Rosalina gentile, sconsolata, sperata, e non sei le sorti, faccia pure la gatta morta. Questo mi quella porta, né mellare, né potrà. E non sei l'innocentina, e non sei l'innocentina, sono stata disperata, sono stata disperata, sono stata disperata, sono stata disperata. Dica quale, dica quale, dica quale. Signorino, un'altra volta quando vanno fuori, signorino, un'altra volta quando vanno fuori, la consegna si ritorna, insomma, non si saprà. Signorino, un'altra volta quando vanno fuori, signorino, un'altra volta quando vanno fuori, la consegna si ritorna, insomma, non si saprà. E non sembra le smorte, non so quella gatta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure la gatta morta. Questo è quella porta, questo è dopo quella porta, ne mellare, ne mellare, ne mellare, ne mellare, ne mellare, ne mellare. Rosina innocentina, sconsolata, disperata. E non sembra le smorte, faccia pure la gatta morta, questa è quella porta, ne mellare, ne mellare, ne mellare, ne mellare, ne mellare, ne mellare, ne mellare, ne mellare, ne mellare, ne mellare, ne mellare, ne mellare, ne mellare, ne mellare, ne mellare, ne mellare, ne mellare, ne mellare, ne mellare, un dottor della mia sorte non si lascia in filo piano, no. Un dottor della mia sorte non si lascia in filo piano. E non si inventa sentita consolata, disperata, in sua cantera ferrata. Io voglio star con te, io voglio star con te. Thank you. Guarda Don Bartolo, guarda Don Bartolo, sembra una statua, sembra una statua, sembra una statua, sembra una statua. Bello, bello, bello. Volto. Non ho il travestimento. Non capisco chi sarà. Il propizio me sarà. Sì, sì, propizio me sarà. Gioia e pace, pace, gioia. Ho capito, cuccio il che noia. Gioia e pace, benicore. Basta, basta, basta, basta, basta, basta, per pietà. Gioia e gioia, pace, pace, ho capito, ho capito, ho ciel che noia, ben di cuore, pace, gioia, basta, basta, gioia, basta, per pietà, pace, perfido destino, il vecchio non mi conosce, ma che barbara giornata, ma mia sorte fortunata, ma che perfido destino, oh, ma che barbara mio giornata, bene, ma che perfido destino, fuori, ma che barbara giornata, tutti quanti a me davanti, tutti quanti a me davanti, gioia, canaglia, pace, ma basta, gioia, basta, basta, per pietà. Basta! 歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台，北京音乐广播，古典音乐有限频道，每天十点，22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎来到歌舞剧场，我是古月，请欣赏普契尼的歌剧《托斯卡》中的选段，由米瑞西欧、兰姆蒂博、卡洛里等歌唱家的演唱，斯洛伐克爱乐合唱团演唱， 捷克斯洛伐克广播交响乐团演奏，拉巴里指挥。